25. Minestra di mattoncini di ricotta. Ricotta grammi 200, parmigiano grattato grammi 30, uova numero 2, sale quanto basta, odori di scorza di limone e di noce moscata. Disfate la ricotta passandola per istaccio, aggiungete il resto e le uova uno alla volta, mescolate bene e versate il composto in uno stampo liscio per cuocerlo a bagnomaria. Sformatelo di accio, levategli la carta con la quale avrete coperto il fondo dello stampo e tagliatelo a dadini della dimensione di un centimetro circa. Collocateli poi nella zuppiera, versate sui medesimi il brodo bollente e mandateli in tavola. Questa dose basterà per 5 o 6 persone.